pasta alla crema, macchiato i pantaloni fuori a cena. Preso la macchina di tua sorella, andavo a 170. Ho nascosto i soldi dentro la credenza, fatto un graffito al muro della stanza. E ancora il postumi da ieri sera, mi sa che non lo reggo più il gin. Ho comprato un biglietto per il Perù, e non mi importa se non lo sei tu. E ho pianto guardando una serie TV di cui parlano tutti. Mi raccomando però, però, acqua in bocca. Che in verità c'è stato qualche bacio in spiaggia. Rubavo io le figurine da bambina, ho quasi preso sotto la vicina. Ho perso il gatto e il pesce rosso, che le avevo perse io le chiavi della porta. Ed una volta ho preso schiaffi una ragazza bionda, facevo firme false a scuola per stare a casa. Acqua in bocca, acqua in bocca. Ho bucato il palloncino a mia cugina, fatto piangere una maestra dell'asilo. E ho buttato a terra quella siga accesa, mi sa che ha preso fuoco il parquet. È che sento la scossa quando passi tu, e a te non importa se non chiamo più. E anche se ho detto a tutti che sei solo un ricordo, io qualche volta ti sogno, però shh, acqua in bocca. Che in verità c'è stato qualche bacio in spiaggia, rubavo io le figurine da bambina, ho quasi preso sotto la vicina, ho perso il gatto e il pesce rosso, che le avevo perse le chiavi della porta. Ed una volta ho preso schiaffi una ragazza bionda, facevo firme false a scuola per stare a casa. Acqua in bocca, acqua in bocca. E chiedo scusa se poi spesso mi faccio lontana, e a volte piango e non lo sai. È una delle cose che non dico mai. Shh, acqua in bocca. Che in verità c'è stato qualche bacio in spiaggia, rubavo io le figurine da bambina, ho quasi preso sotto la vicina, ho perso il gatto e il pesce rosso, che le avevo perse le chiavi della porta. E una volta ho preso schiaffi una ragazza bionda,